Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Certo che è dura. Ancora pochi giorni e per tutta la vita sarai l'uomo che è arrivato in cima all'Everest. Roba a base. Rob, dove sei? In cima all'Everest, Helen. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutti. Avete appena sentito una clip del film Everest, un film del 2015 con Jason Clarke, che racconta di un'avventura sulla montagna più alta del mondo. Ecco, a differenza di tanti film di avventura di montagna, in questo film non muore nessuno. Invece, in un'altra famosa avventura che avvenne a Punta Rasca nel 1935, su 19 partecipanti morirono ben 5 persone. Uno dei superstiti era una persona originaria di Varese, tale Vitale Bramani, che, constatando che siccome i piedi si inzuppavano c'era necessità di evitare l'assideramento, allora si fece venire in mente l'idea della suola che non lasciava passare l'acqua. Da lì l'idea della Vibram. Oggi la Vibram è la protagonista di questa puntata e il nostro tema sono le suole made in Italy. Salutiamo Paolo Manuzzi, direttore generale di Vibram. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, la scarpa col carro armato che non lascia passare l'acqua, perché sennò per le avventure in montagna e queste cose tecnico-sportive si rischia di morire. Sì, i motivi dell'invenzione sono duplici: uno, per rendere le scarpe più impermeabili quando si cammina sulla neve, dato che le suole ai tempi erano fatte di cuoio, quindi si impregnavano d'acqua, diventavano pesanti, lasciavano passare il freddo, ma il secondo motivo, forse più importante, è che dava grip in tutte le condizioni di terreno. Cos'è alla il grip? Alla neve, all'erba, all'asfalto. Cos'è il grip? La tenuta della suola che riduce lo scivolamento. Ecco, a progettare quella scarpa lì aveva anche contribuito Leopoldo Pirelli, perché probabilmente la materia prima era della Pirelli. Tutto quello che è il disegno e l'idea è di Vitale Bramani. Ah. Poi Vitale Bramani era in rapporti buoni, era amico di Leopoldo Pirelli, che l'aveva aiutato a stampare, a produrre i primi prototipi e quindi poi rendere l'idea e il pezzo originario, il modellino originario in realtà. Comunque è una storia che è veramente interessante. Tra l'altro l'azienda è diventata famosa nel 1954, quando tutta la spedizione italiana sul K2 indossava scarpe con suola Vibram, giusto? Sì, giustissimo, erano calzature dell'azienda italiana Dolomite, equipaggiate con suole Vibram. Ecco, ma voi fatturate 190 milioni di euro, siete un'azienda familiare, un'azienda industriale. Quanto è sport e quanto sono le comuni scarpe? Oggi quello che riguarda lo sport riguarda circa 50-55% del nostro fatturato. Il resto viene diviso tra il mercato delle scarpe che noi chiamiamo dress and casual, quindi classiche, che portiamo tutti i giorni, e una buona fetta anche sul settore della riparazione. Ma infatti nei calzolai di Milano trovi praticamente solo suole della Vibram, ma forse questo è il caso di Milano, magari a Roma al sud non sarà così. No, si trovano in tutta Italia e in tutto il mondo, è chiaro che abbiamo anche altri concorrenti, però se uno vuole il prodotto di qualità cerca Vibram. Certamente. Dunque, voi quanti dipendenti avete? Oggi a livello mondiale siamo circa 800. Uh-huh. E in Italia dove avete sede? In provincia di Varese, no? In Italia siamo in provincia di Varese, ad Albizzate, siamo in 271 persone con lo stabilimento qua annesso e gli uffici. Senta, ma la lavorazione della suola ancora vede un certo ruolo della componente manuale? Molta manualità. Come mai? Perché il processo che richiede, che io assimilo sempre a quello di fare un dolce, richiede molta manualità, dalla preparazione delle materie prime, degli impasti, alla finitura della suola stessa una volta che viene stampata. Mm-hmm. E quindi c'è una buona percentuale di manodopera, all'incirca il 50% di manodopera rispetto a... Ma e perché non possono farlo i robot? Perché è un processo abbastanza complicato, in più fasi, e oggi tra l'altro il mercato non è più un mercato di alti volumi e pochi modelli, ma si tratta di prodotti che sono più modelli diversificati, quindi il robot diventa difficile da gestire. Perché dovresti avere tanti robot diversi per ogni forma, e poi comunque lo devi disegnare, e allora ora che lo disegni lo fai anche. Sì, poi c'è il problema che nelle calzature c'è la variabile delle taglie, quindi ogni stampo, ogni misura è uno stampo, e quindi tantissime variabili, taglie, colori, modelli. Quindi i robot sono creati per andare più standard. Ma lei paragona spesso il prodotto a quello della produzione della pasta? Sì, sì, è una produzione della pasta in maniera più industriale, quindi con macchinari molto più grandi, chiaramente tarati in maniera diversa per altre temperature e altre pressioni, però concettualmente, se uno se lo vuole immaginare, materie prime che sono le materie prime possono essere come quelle per la pasta, che vengono impastate e poi cotte. Ma esiste un valore della suola made in Italy, nel senso, come per la moda e per altri settori, il made in Italy viene riconosciuto avere un valore? Secondo me non tanto, viene più vista come qualità, un valore di qualità. Noi siamo riconosciuti per qualità, per le performance. Ma non riuscite a imporre il vostro marchio un po' come fece Intel per i computer, che anche se erano computer dell'IBM o della Hewlett Packard, riuscì a far inserire Intel Inside e quindi a dare un riconoscimento di valore del brand all'interno del prodotto di un altro brand? Non avete la forza per fare questo? A volte ci riusciamo, altre volte non ci riusciamo. I nostri prodotti vengono tutti marchiati comunque, appunto per questo motivo, cioè ogni suola nostra ha il nostro logo giallo o il nome vivano scritto. Quindi proviamo ad imporci, questo senza ombra di dubbio. Non sempre possiamo, non sempre ci riusciamo. Sul Made in Italy tante persone pensano che noi siamo un'azienda americana, italiana, e quindi forse lì per mi chiameranno Vibram. Esatto, in America ci chiamano Vibram. E beh, perché Vibram, che poi è l'acronimo del fondatore Vitale Bramani, sembra un nome americano. Comunque dobbiamo interromperci un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Certo che è dura. Ancora pochi giorni e per tutta la vita sarai l'uomo che è arrivato in cima all'Everest. Rob, a base! Rob, dove sei? In cima all'Everest, Helen. Rieccoci in linea, oggi parliamo di scalate in alta montagna. Voi vi direte perché parlare di questo in una trasmissione sulla fabbrica, perché oggi parliamo della fabbrica delle suole per andare in alta montagna per fare grandi avventure. Oggi stiamo infatti parlando con Paolo Manuzzi, che è il direttore generale di Vibram. Allora, ha sentito anche lei la clip del film sull'Everest. Senta, ma per andare sull'Everest che suole ci vanno? Oggi come oggi sono quasi tutte suole Vibram, direi al 99% sono suole Vibram. Addirittura, e che caratteristiche hanno queste suole? Oggi hanno caratteristiche di essere durevoli, quindi durano molto, di avere un buon grip tenuta su tutte le condizioni di terreno, e stiamo sviluppando nuovi prototipi che portano anche una maggior leggerezza. Oggi andare sull'Everest diventa fondamentale riuscire ad andare con attrezzature leggere, e quindi anche certe nostre suole che vengono applicate sulle scarpe. Ma lei è mai andato sull'Everest? No. Io le dirò, tutte queste robe qui, la montagna, il freddo, le arrampicate, perfino lo sci, non mi hanno mai appassionato per un solo secondo della mia vita. Io sono per sparapanzarmi al mare, prendere il sole, stare al caldo, dormicchiare, leggere, sentire l'iPad. Quando vedo questi che siamo andati sull'Everest, dico mio Dio, ma manco se mi pagassero, cioè dovrebbero veramente pagarmi tanto, ma dai 100.000 in su se ne parla, perché se solo mi dicono vai te ne diamo 20.000 non bastano. Senta, ma voi avete questi due brevetti, Arctic Grip e Mega Grip, ci spiega di che cosa si tratta? Sono delle formulazioni speciali che abbiamo creato negli ultimi anni con applicazioni diverse a secondo dell'uso della scarpa. L'Arctic Grip è una mescolazione particolare che serve per migliorare la resistenza allo scivolamento sul ghiaccio. Cioè, praticamente chi cammina su terreni umidi, ghiacciati, innevati rischia meno di scivolare rispetto a una calzatura normale. Ma il rischio migliore, se ti è migliore per ridurre il rischio, sarebbe non andarci. Però io non ho capito perché uno deve andare a camminare sul ghiaccio. Ma no, perché ci tiene in città, tipo questi giorni che ha nevicato, comunque i marciapiedi o le strade sono ghiacciate. Sì. Perché comunque anche di notte l'umidità poi ghiaccia, no? Senta, ma voi avete fatto anche delle scarpe sperimentali prodotte col vostro marchio, tipo quella che ha le cinque dita del piede. Questa è stata una scommessa che abbiamo realizzato più di 10 anni fa, di una calzatura come innovativa. Si chiama quella con le dita del piede, quella con le cinque dita? Five fingers, cinque dita. Perché dita. E cosa serve questa scarpa? Ma è stata sviluppata per rendere la camminata più consona al movimento naturale del nostro corpo, che siamo nati nudi per andare ai piedi nudi. E aiuta praticamente a sentirsi come i vecchi tempi, come un bambino. Come, cioè l'idea uno dovrebbe camminare come fosse scalzo. Sì, perché il nostro corpo è una macchina perfetta, quindi diciamo è poi stata l'evoluzione nel settore della calzatura che ha portato ai vari cambiamenti, ma in realtà non più tardi di 200 anni fa si andava a piedi nudi, no? Ecco, ma questa scarpa qui serve per andare dove? No, è stata sviluppata per correre, per fare training in palestra. Inizialmente era nata per fare anche camminate outdoor, quindi nei boschi, nelle campagne. Poi si è evoluta e i modelli sono evoluti e viene usata nel settore del fitness, della corsa. Poi avete fatto anche la suola delle scarpe che ricarica lo smartphone. Sì, è ancora in fase prototipale di test, però abbiamo già dei prototipi dove praticamente si genera corrente e permettono quindi di avere una certa carica per ricaricare, diciamo, lo smartphone. Uh-huh. È un progetto molto più complesso, a cui pensiamo non solo lo smartphone, però sì, stiamo lavorando in questa direzione. Tranquilli, so sempre io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista troppo giusto. Ecco, avete appena sentito un piccolo jingle tratto dal film sui paninari. Perché? Perché di Vibram era la suola delle famose Timberland. Verissimo, verissimo. Noi in Italia siamo famosi per due motivi: uno, perché siamo la suola degli alpini, e due, perché siamo diventati famosi negli anni 70-80 con le Timberland. Gli anni dei paninari, che io andavo al liceo e se non avevi le Timberland e il Moncler eri out. Verissimo, verissimo. E lei ce l'aveva? Ce l'avevo, sì, anch'io. Ero anch'io ai tempi del liceo e c'era questa moda di Timberland con sotto Vibram, e mai avrei immaginato di finire poi per lavorare per Vibram. Senta, ma come cambia il mercato mondiale delle suole? È in mano sempre più a grandi aziende che producono anche calzature, soprattutto nell'est. Nell'est Europa? No, nell'est, in Asia, dove ci sono i grossi produttori di calzature, e poi abbiamo dei produttori qua in Europa, in Sud America. Ma cosa chiedono i produttori di calzature? I nostri chiedono qualità, quindi che vuol dire che è un prodotto che duri molto, che non faccia scivolare o tenga più degli altri, quindi performance, e poi dipende molto dalle varie attività che uno fa. Su una scarpa da corsa vogliono la leggerezza, sulla scarpa da trekking che duri tanto e che non scivoli. Quindi dipende molto sul lato cittadino, anche di buon look. Senta, voi siete un'azienda familiare, giunta alla terza generazione e senza progetti particolari di quotarsi in borsa o di avere un fondo di private equity. Che cosa comporta per voi essere un'azienda familiare? Io dico molti vantaggi, nel senso che grazie al fatto di avere dietro una famiglia abbiamo possibilità di investire o fare dei programmi a medio-lungo termine senza avere l'assillo del fatturato, del risultato positivo da presentare ogni trimestre. Quindi voi staccate dividendi? Sì, vengono staccati. Vengono staccati, ma chiaramente non abbiamo la pressione del trimestre. No? Quindi siamo per le cose, le facciamole bene, non senza la pressione di doverle portare sul mercato per forza per portare fatturato. questo. Senta, io avevo visto anche Vibram Fukoshi Furoshiki. Furoshiki Wrapping Sole. Che cos'è questa suola che avvolge tutto il piede? E questo è un'altra, il secondo prodotto di calzatura che portiamo sul mercato dopo Five Finger. Mm-hmm. Ed è praticamente un sistema di una suola che si può avvolgere attorno al piede e quindi regola la tomaia, quindi la scarpa, in base alle varie dimensioni del suo piede. Se non sia il piede più magro, un po' più grasso o ha dei problemi, quindi lei può tranquillamente regolare la scarpa. E quindi chiamiamo, è come una suola che si avvolge attorno al suo piede, che fa poi da calzatura. Senta, è bello che sia fatto tutto con operai interni, ma... però voi Cattivelli producete anche in Cina? Sì, produciamo anche in Cina e produciamo anche negli Stati Uniti. La filosofia dell'azienda è chiaramente di stare in Italia il più possibile. Purtroppo siamo legati anche ai nostri clienti che spesso producono in altri paesi e quindi per garantirgli un servizio e la possibilità di fornirgli il prodotto in tempo dobbiamo produrre vicino alle loro fabbriche. Sull'interconnessione, l'IoT, l'Industry 4.0, che cosa state facendo? Stiamo investendo parecchio, sia qua in Italia che in America che in Cina, per migliorare le efficienze, ridurre gli sprechi e ridurre anche i costi. Quindi con nuovi macchinari, nuovi sistemi anche di stampaggio. Il tempo stringe, dobbiamo salutare Paolo Manuzzi. A risentirci prossimamente. E saluto anche tutti gli ascoltatori di Fabbrica 2.4. Viva le fabbriche, viva i robot e viva l'acciaio! Buon sabato a tutti!